Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di tasse, di fisco, di imposte. Ne parliamo con Giuseppe Bortolussi. Buonasera Bortolussi. Buonasera a voi. Giuseppe Bortolussi è segretario dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre, il cui ufficio studi è molto spesso presente sui giornali per le indagini, le statistiche che pubblica. È fra i più autorevoli esperti di finanza pubblica e di sistema fiscale italiano ed ha scritto il libro Tassati e Mazziati. Le tasse nascoste quando lo Stato ci mette le mani in tasca due volte, edito da Sperling e Kuffer. Bortolussi, allora non solo tassati ma anche mazziati, cioè il fisco ci fa pagare le tasse ma una parte ce le fa pagare e non ce lo dice nemmeno. Esattamente, ma la prima cosa da dire, tutto il libro mira a una cosa, mira ad informare gli italiani, a renderli edotti e consapevoli di una cosa che non sanno, che pagano più tasse degli altri cittadini europei. Tolta la Danimarca e la Svezia, l'italiano paga più tasse di un francese, di un tedesco, di un austriaco, di un belga, di un olandese, di un inglese, e questo l'italiano non lo sa, cioè paga tante tasse e molto spesso viene definito dai nostri stessi governanti a volte un evasore. Ci sono anche gli evasori, c'è anche l'economia sommersa, nel libro ne parlo ampiamente, ma dando anche delle stime, riportando quello che dice l'Istat. Ma la cosa che non sanno gli italiani è che pagano più tasse degli altri, e questo è giusto che lo sappiano, ma a volte non se ne rendono conto perché alcune di queste tasse sono veramente occulte, uno non si rende conto di pagarle, e allora ci sono parecchi esempi, il discorso della tassa sulle tasse, il costo della benzina, una cosa è il costo industriale, poi ci sono le accise, ci sono delle addizionali locali e sopra di queste c'è l'IVA, sicché si paga la tassa su una tassa, senza contare che quando il prezzo della benzina aumenta, lo Stato, siccome l'IVA è proporzionale, certo, cosa succede? Che lo Stato ci guadagna di più. Negli ultimi 6 anni ha guadagnato 2,5 miliardi. Le famiglie fanno fatica a arrivare all'ultima settimana, però lo Stato, invece che sterilizzare realmente, c'è un meccanismo di sterilizzazione, ma che non entra mai in funzione, invece di sterilizzare guadagna anche sugli aumenti del costo della benzina. Lo sceicco... Poi ci sono molti altri esempi. Certo, lo sceicco è anche lo Stato, non solo i petrolieri. Sì, sì, questo è il guaio. Ecco, lei inizia proprio il libro dicendo il 51% del nostro reddito lordo, più della metà di quello che ogni anno guadagniamo, è quanto lo Stato preleva ai contribuenti onesti. Ma come? Certo, ci avevano certo detto che la pressione fiscale era del 40%? Ma guardi, la questione è molto semplice. Se io, che cos'è la pressione fiscale? Metta che io guadagno 100 euro, no? Se lo Stato me ne preleva 45, la pressione è del 45%. Ma se quel 100 non è reale, è fittizio in parte, perché dentro ci metto anche la stima dell'economia sommersa, e in realtà, mi spiego, la ricchezza, il reddito prodotto è 90, su quel 90, quel 45 di prelievo è il 50%, è quello che succede, perché nell'83 e nell'87 l'Europa ci ha imposto di adeguare la stima dell'economia sommersa, di adeguare il nostro PIL, quindi quando noi diciamo il nostro PIL è 1.550 miliardi di euro, diciamo una cosa che è vera solo in parte, perché c'è anche la stima dell'economia sommersa che annacqua la pressione fiscale. Secondo l'Istat, che lei riporta nel libro, l'economia sommersa vale circa, che è impossibile dare una cifra esatta, il 16-17% del PIL. Ecco, ma com'è possibile recuperare questa evasione? Non è un po' fisiologico che ci sia un'economia sommersa, magari non criminale, ma comunque un'economia in nero? Ecco, anche questo va spiegato, perché, vede, sotto questo punto di vista l'Istat è precisissimo e bravissimo nel fare questa stima, ma c'è un tal professor Snyder dell'Università di Linz, il quale sostiene che l'economia sommersa in Italia è il 22%, in calo da anni, prima era addirittura il 25%, e dà però i dati del confronto europeo, dove si vede che anche la Germania ha un 14-15%, anche la Svezia, la Finlandia hanno il loro 15-16%, 10% di economia sommersa, il che significa che un po' di economia sommersa è fisiologica anche in altri paesi con una moralità pubblica, con un sistema di controllo migliore del nostro. Però in Italia il problema vero è la concentrazione in alcune regioni, soprattutto del sud. Non è che manchi al nord, però è circa la metà rispetto al sud. Naturalmente quando l'economia è sommersa praticamente tasse non se ne pagano e quindi è la fonte principale, secondo me, della evasione fiscale. Quindi un po' di federalismo sotto questo profilo potrebbe essere utile, Bortolussi. Sì, la cosa più importante del federalismo è questa, che noi guardiamo sempre, ed è qui il gioco di prestigio che viene fatto, guardiamo sempre all'evasione, no? Quando lei parla di, se dice ma paghiamo troppe tasse in Italia, troverà sempre qualcuno che risponde per forza perché c'è qualcuno che non paga e quindi chi paga paga di più, ma questa è solo una parte del ragionamento, perché, e faccio l'esempio nel libro dei due condomini, quello tedesco e quello italiano, è chiaro che è vero che c'è qualcuno che evade, ma è chiaro che il vero problema è che nella vasca da bagno c'è un buco, che c'è una macchina mangia soldi che è data dagli sprechi. Da cosa si vede? Dal fatto che per esempio l'Italia, pressione tributaria, imposte, tasse e tributi, paga quasi un 30% sul PIL, in Germania è il 24%, sono 6 punti di differenza, due si giustificano col debito pubblico superiore, quindi paghiamo più interessi dei tedeschi, ma gli altri 4 punti sono 60 miliardi all'anno di spreco. Un dato solo a conferma, per esempio macchina burocratica, pubblico impiego in Germania, spesa rispetto al PIL 7,4, Italia 11,2. Cioè, questa differenza bisogna che tu la paghi, che la finanzi. E allora cosa succede? Perché il federalismo può essere la salvezza, può essere una cosa importante? Perché il federalismo dice una cosa, che nei paesi federali come Germania, Austria, Belgio e Spagna la spesa per la macchina burocratica è la metà dei paesi unitari. Perché questo? Perché la spesa è decentrata, sotto il controllo del cittadino che vede, vota e paga. Questa è la differenza. La prova del 9 è data dalla Danimarca, che è un paese unitario ma che ha una spesa altamente decentrata, per cui anche lui spende la metà. Qual è la macchina burocratica che potrebbe, mi spiego, far bene all'Italia, ridurre gli sprechi, la spesa? È lo strumento del federalismo, che come tutti gli strumenti può essere usato bene o male, ma che, visto che ha funzionato in altri paesi, potrebbe funzionare bene anche in Italia. Quella è l'unica strada, secondo me. D'altra parte, chi dice che potrebbe aumentare le tasse, è vero, potrebbe anche essere usato male, ma non c'è barba di imprenditore che, sapendo che c'è una macchina che produce il doppio, non rischierebbe di introdurla nella sua azienda. Ecco, proprio l'imprenditore, lei dedica un capitolo alle tasse sull'imprenditore. L'impresa in Italia è vista come una mucca da mungere spesso. Sì, c'è di peggio, è vista come un qualcosa di anomalo, un qualcosa che dà fastidio. Lo Small Business Act europeo dice che bisognerebbe creare la cultura adeguata perché un'azienda possa prosperare. In Italia si assiste a una cultura che è contraria all'azienda, vede nell'azienda qualcosa di sbagliato. Invece l'azienda è importante, la gente non si rende conto che piccola, media o grande che sia, l'impresa è quella che crea occupazione, non la crea lo Stato. E allora all'impresa bisognerebbe fare ponti d'oro, la semplificazione, ma anche la tassazione. Scusate, quando un'impresa deve sopportare, in un paese come il nostro, costi dell'energia superiori al resto d'Europa, 40%, 30% la piccola, anche 40% in più, trasporti 10% in più, lungaggini burocratiche, tempi della giustizia civile dai 7 agli 11 anni, deficit infrastrutturale. Arriviamo alle tasse. Le tasse sugli utili sono il 68% in Italia e il 48% in Germania, media OCSE 32. Allora uno si deve chiedere, ma scusa, ma i nostri imprenditori, tanto vituperati, tanto, mi spiego, non presi in considerazione sia dallo Stato che dai cittadini, sono talmente bravi che gli altri non vengono neanche a lavorare qua perché le condizioni sono proibitive. Lo dimostrano l'IDE, gli investimenti diretti esteri, che in Italia sono talmente bassi che siamo il penultimo paese in Europa. Ma perché non vengono a investire gli altri qua? Perché la situazione è proibitiva, perché con questa situazione e anche con questa tassazione gli altri non se la sentono di lavorare. Ecco che noi facciamo danno al nostro sviluppo e soprattutto all'occupazione. Non possiamo poi lamentarci che il 30% dei nostri giovani non lavorano. Se non curiamo l'impresa, se non capiamo che ci sono troppe tasse, spesso occulte, che non ce ne rendiamo conto purtroppo, ahimè, ma se non cambia questo, non si fa questa piccola rivoluzione culturale, in Italia rimarremo quelli che siamo, cioè il paese che cresce meno degli altri. Quindi questo libro è da leggere anche se in fondo ci si può arrabbiare leggendo. Ma guardi, ci si può arrabbiare, però mi conforta un fatto: chi legge questo libro si rende conto, ed è uscito in libreria il 5 di aprile, che questo libro in pratica ha anticipato quello che ha detto Draghi e quello che adesso stanno dicendo un po' tutti, però non mettono mai l'accento su una cosa importante. Sono importantissimi gli sprechi, bisogna analizzare meglio e ridurre quello. Battere l'evasione è importante, ma ancora più importante battere quella macchina mangiasoldi, quella macchina che crea gli sprechi. Ecco, quali sono gli sprechi, come funziona la macchina del fisco? Troverete queste notizie, queste informazioni nel libro di Giuseppe Bortolussi, Tassati e Mazziati, le tasse nascoste, quando lo Stato ci mette le mani in tasca due volte, edito da Sperling e Kuffer. Sono 180 pagine per 16,50 euro IVA compresa. Grazie a Giuseppe Bortolussi, così come ringrazio Filippo Reggi in regia, Dita Palizza in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e alla prossima settimana.